La scuola va male, non so cosa fare, lasciare pensare, solo a rappare. Voglio un futuro sicuro, studiare con la consapevolezza di evitare un lavoro duro. 10 ore in un cantiere a sbancarsi il culo, me lo dicono in tanti e vi giuro che a volte mollerei tutto qua. Gli affari loschi ti danno frutto già, ma maggiore tareschi di brutto fra. Troppa gente parla bla bla bla e fare strada con il rap senza l'università, non in questo posto, forse in un'altra città. Chi lavora per l'agosto con in mente rate dell'auto fino a 3.400, mentre gente ricca come Baudo ti vedi rendita pippando ogni giorno all'anno, grammo dopo grammo. Finché il cuore non scoppia, finché la scimmia è così grossa che t'accoppa. Voglio sicurezze, troppe incertezze, traffico merda in una scuola di mezze checche che pippano schifezze e nel gregge fanno i fuori legge, lasciano la sgomata quando fanno scorregge. Pur di schegge nessuno la regge, lanciano frecce d'odio perché un pirla li protegge. Un gorilla che strilla, se scatta la scintilla lo corico a terra e gli fotto la sgrilla. Spero che un giorno sarò in una villa con cash e baggy larghi come la mia pupilla. Bad life, soldi facili, cash, cash, ma quando meno te le immagini è un flash. Bad life, ora sono minorenne e non indaghi, ma una volta maggiorenne la paghi, sanno pure quando caghi. Bad life, soldi facili, cash, cash, ma quando meno te le immagini è un flash. Intercettano e ti seguono, manco fossi predator, bisogna avere fegato, ma prima o poi ti segue. Hey yo man, la scuola va puttane, io so già cosa fare, mollare o spacciare, 15 anni già messo lì a lavorare, pugno chiuso ed un pensiero fisso, amico farmi rispettare, devi rispettarmi. Il bagno un'altra siga con la bamba, occhio a sti caramba, non passarmi il pezzo adesso, troppo sgramo, bello fine settimana, scene di guerriglia urbana, merda tira sulla grana, fumo buono e succhia sta banana. Appena adolescente, fatti avanti, prendi calci in bocca da sta gente, vendi, vendi e occhio a come spendi, il lavoro che non rende, quella goccia che ti scende, quanto costa il mio sudore, ogni pezzo col suo prezzo, tira sulle mani dallo sterzo, ma lo schifo che disprezzo, non ci scherzo, oro bianco dentro 5 euro arrotolate, pensa a lavorare, pensa a meritare il pane per mangiare, niente da spartire, la strada è un film, è la nostra, è senza lieto fine, niente sex appeal nella via, solo le sirene accese della polizia, un avvocato come tuo miglior amico, una vita da bandito, ora fissa bene questo terzo dito, amico tira sulle antenne, resti indenne fino a quando non diventi maggiorenne. Bad life, bad life, soldi facili, cash, cash, ma quando meno te le immagini è un flash. Bad life, ora sono minorenne e non indaghi, ma una volta maggiorenne la paghi, sanno pure quando caghi. Soldi facili, cash, cash, ma quando meno te le immagini è un flash. Intercettano e ci seguono, manco fossi predator, bisogna avere fegato, ma prima o poi ti frega. Bad life.